1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, cari ascoltatori, siamo di nuovo in diretta e sono le 7:17 minuti. Forza, come dico sempre, debosciati del 2014, svegliatevi, andate a lavorare. È ora di scendere dalle brande, è ora di abbandonare i caffè e mettersi in macchina, in treno, in bicicletta, a piedi, quello che volete, eh? Allora, oggi di che parleremo? Parleremo, mi ha molto colpito quello che è un rapporto anticipato ieri dal Corriere della Sera sulle società pubbliche del Comune di Roma, il debito del Comune di Roma che arriva a 1 miliardo, e un Comune di Roma che sta di fatto, raccontava ieri il Corriere, ha più dipendenti della Fiat, il Comune di Roma, con le tante società municipalizzate. E parleremo di questo, non è il caso che una situazione del genere debba portare al fallimento? Chi lo sa? Ovviamente si sta parlando non di un'azienda, ma di un'azienda particolare, un'azienda pubblica, l'azienda del comune più importante d'Italia. E ne parleremo con Riccardo Maggi, che è consigliere comunale dei Radicali a Roma, che ha portato avanti questo dossier. Sarà con noi anche Flavio Tosi, sindaco di Verona. Sarà con noi Carlo Bonini, inviato di Repubblica. Di questo parleremo alle 8:15, i debiti del Comune di Roma e quello che ne consegue. Alle 8:15 ovviamente. Intanto andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. Questo martedì 7 gennaio i titoli, il Sole 24 Ore apre così: debiti fiscali e crediti della pubblica amministrazione via alle compensazioni. Nel 2013 rimborsi IVA alle imprese da 11,5 miliardi. L'apertura del Corriere della Sera invece è sulla legge elettorale, la mina del modello spagnolo. Questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, spending review, ecco il piano. Mentre La Stampa, governo, patto entro 20 giorni. Il Giornale invece titola così a tutta pagina: basta saccomanni, fallimenti e bugie. Mentre per Libero, ci allungano la vita per tassarci meglio. Per il governo campiamo 120 anni. Il Messaggero, riforme, l'ultimatum di Renzi, questo è il titolo. Mentre per l'Unità, Letta, Renzi, prove di patto. Il Fatto Quotidiano invece apre così: i corazzieri di Re Giorgio all'assalto del fatto. Su Repubblica, Mario Pirani, amico di Napolitano, chiede che contro il nostro giornale venga applicato il reato di vilipendio al capo dello Stato. Queste alcune delle aperture che trovate sui principali quotidiani, ne vedremo delle altre nel corso della rassegna stampa. Intanto si diceva della spending review, è un piano che sta portando avanti il commissario alla spending review Carlo Cottarelli, e ci sono due articoli interessanti. Il primo lo trovate sul Sole 24 Ore a pagina 2, e l'articolo di Marco Rogari, il titolo è questo: anche le pensioni nel menu della spending review, possibilmente a inizio primavera, scrive Rogari, a più tardi prima della prossima legge di stabilità. Sotto la spinta della spending review targata Cottarelli sono destinati ad arrivare alcuni ritocchi a una fetta dell'impalcatura del sistema previdenziale. Lo stesso commissario straordinario alla revisione della spesa ha più volte affermato che nel mirino potrebbero finire le cosiddette pensioni d'oro e d'argento, un bacino non proprio limitato che comprenderebbe gli assegni medio-alti con connotazione retributiva, calcolati sulla base dello stipendio e non solo del contributo dei contributivi versati, le reversibilità sempre in relazione al passaggio al contributivo ed eventualmente il meccanismo di cumulo tra più trattamenti previdenziali e altri redditi da lavoro. Tutto questo è in un dossier sul tavolo di uno dei 25 gruppi di lavoro formati da Cottarelli, e precisamente il gruppo firmato al Ministero del Lavoro, che però è intenzionato ad analizzare con molta attenzione la questione, sia per le cadute a livello costituzionale, sia per evitare di rallentare la corsa di alcune misure già allo studio del ministro Giovannini. L'idea comunque è di mettere nuovi ritocchi su assegni retributivi medio-alti, sulla reversibilità e sul cumulo. Dunque anche il sistema pensionistico dovrebbe finire nella spending review di Cottarelli. L'altro articolo interessante sul tema è l'apertura di Repubblica. Federico Fubini racconta che la spending review di Cottarelli è agli ultimi giri di pista. Fra meno di due mesi il commissario, chiamato da Saccomanni, deve alzare il velo sulle prime proposte di tagli alla spesa, e per farlo ha articolato un piano di lavoro per evitare la paralisi nella giungla di voci da analizzare. Si racconta, dice Repubblica pagina 3, che Cottarelli è capitato più volte di trovarsi come uno sceso da Marte. Il commissario per la spending review viene dal Fondo Monetario Internazionale, si occupava di bilanci pubblici e di grandi numeri aggregati. Ma forse lo sguardo all'Italia ha fatto trovare anche piccole situazioni che lo ha spinto, per esempio, a fare questa domanda: a che serve un ministero per la coesione territoriale se ce n'è già uno per gli affari regionali? E lo stesso interrogativo potrebbe replicarsi per le politiche antidroga. Perché la presidenza del Consiglio spende 6 milioni di euro quando già il Ministero della Salute opera nello stesso campo? E così per una miriade di altre uscite. Per esempio, racconta Repubblica, attenzione a una gara. Nel 2012 il Dipartimento per gli Affari Regionali, Turismo e Sport concede un contratto mediante gara informale da 228.000 euro per appalto di servizi per la realizzazione di campagna di comunicazione e media relation internazionale e nazionale a un'impresa di Milano chiamata International Strategic Communication, che non sembra avere un sito internet e avrebbe un capitale sociale di 10.000 euro. Un appaltatore così che Palazzo Chigi affida una campagna per il rilancio dell'immagine dell'Emilia dopo il terremoto? Oppure fare un'operazione di spending review, continua Repubblica, in queste condizioni rischia di trascinare i protagonisti in valutazioni difficili. 4.000 euro di spesa nel 2013 in fornitura caffè per Palazzo Chigi. 1.300 euro per spostare 5 fotocopiatrici. 740 euro per cambiare un doppio vetro. Insomma, oppure 14.374 euro alla Lega American Football per realizzare il progetto Latin American Stars and Stripes. Insomma, dice Repubblica che a fianco alle grandi valutazioni di taglio alla spesa, come racconta il Sole 24 Ore, soprattutto la questione delle pensioni, c'è anche poi la questione di queste piccole spesucce che, messe insieme una dietro l'altro, però sono spesucce che sembrano poco giustificabili, sulle quali il commissario Cottarelli si sta concentrando. Certo, però fa specie vedere a fianco a questo tentativo di taglio alla spesa pubblica un articolo come quello pubblicato da Libero in prima pagina. Il titolo è emblematico, l'articolo di Franco Bechis, il vice direttore di Libero, ed è questo: i dipendenti del governo si alzano la paga del 30%. Uno dice, ma come? Eppure a leggere il sito di Libero, il quotidiano Libero, è così: due anni di spending review e lo stipendio sale su. È il miracolo compiuto a Palazzo Chigi dagli ultimi due governi, quello di Mario Monti ed Enrico Letta. Gran parte degli stipendi degli italiani, grazie alle manovre finanziate di quei due, sono scesi, limati da tasse, hanno perso il potere d'acquisto. Mentre a Palazzo Chigi è accaduto l'esatto opposto. Gli stipendi dei top manager cresciuti in media del 25-30%, quelli delle seconde fasce del 10-15%, questo dal 2011 a oggi. Un dato clamoroso, scrive lo stesso Libero, ottenibile confrontando la tabella degli emolumenti nella sezione trasparenza del sito internet del governo alla fine del governo Berlusconi con quello più recente del governo Letta. Primo dato aggiornato al novembre 2011, il secondo al 3 dicembre 2013, in mezzo a appena due anni che per gli italiani sono sembrati una vita, con una montagna di tasse, la riduzione di servizi essenziali, la perdita di posti di lavoro. A Palazzo Chigi il posto l'ha perso solo uno stretto gruppo di collaboratori dei presidenti del Consiglio e dei ministri senza portafogli, nemmeno tutti peraltro, qualcuno è stato anche promosso, mentre per la retribuzione dei dirigenti, e ci sono tutte le retribuzioni, nome e cognome e gli stipendi, chi guadagnava 140.000 euro nel 2011 guadagna 178.000 euro, come Ilaria Antonini, più 26,98%, Diana Agosti da 174 a 218.000 euro, più 25,03%, e così via. Tutto l'elenco dal sito internet trasparente, insomma, c'è chi ha avuto un rincaro, anche un aumento del 37,05% dello stipendio dei top manager alla presidenza del Consiglio. È il caso di Ermenegilda Siniscalchi, da 153.000 euro nel 2011 a 209.000 euro attualmente nel novembre 2013. Aumenti comunque medi del 30% dei dirigenti di Palazzo Chigi. Accidenti. Allora, disavventure dei tedeschi con gli sci. Beh, queste vacanze di Natale, l'ultima è capitata ad Angela Merkel. C'è questa polemica, che è un po' di colore, un po' no, sul fatto, ma insomma, una persona che ha degli impegni istituzionali così importanti come la cancelliera, è giusto che vada a sciare col rischio di farsi male? Ora avrà 3 settimane di incontri saltati. Certo, potrà continuare a lavorare, ma col bacino rotto. Tra l'altro andava in sci di fondo con degli sci vecchissimi, già era stata presa in giro con questo perché aveva degli sci molto vecchi prodotti nella Germania Est 20 anni fa, tanto che l'azienda produttrice aveva detto: compri un modello un po' più nuovo, perché avranno perso l'elasticità quegli sci. Risultato: si è rotta il bacino, è caduta, andava a sci di fondo, andava anche a bassa velocità, su un piano. E vi segnalo, oltre alla polemica con qualcuno ha fatto notare per esempio su Libero che il vice ministro italiano Marta Dassù, insomma, ha fatto un tweet dicendo: a quell'età è chiaro che mi spiace, ma è imprudente per chi sta fermo tutto l'anno e sia sopra i 50 anni e anche cancelliere sciare. Insomma, questo è il vice ministro agli esteri italiano Marta Dassù, ma è un po' quello che pensa anche Vittorio Feltri, che recentemente aveva scritto un articolo spassosissimo contro la moda dello sport a tutti i costi. Oggi Vittorio Feltri non può credere al vero di poter dire: avevo ragione io, cara Merkel, meglio le carte dello sci. La cancelliera cade sulla neve, in prima pagina del giornale Vittorio Feltri scrive: beh, io capisco per esempio quei lavoratori obbligati a stare alla scrivania 8 ore al giorno, gli addetti alle catene di montaggio, timbrato il cartellino, riconquistata la libertà è fatale, che sentano la necessità di sfogare lo stress correndo di qua e là senza sapere dove andare. La frustrazione generata da alcuni mestieri in qualche modo va compensata, ciascuno vi rimedia come può. Ma io dico viceversa: coloro i quali occupano posti di responsabilità, operano a livelli alti assicurandosi gratificazioni, onori, perfino redditi soddisfacenti, stiano calmi, si accontentino di una partita a scacchi o a scala 40, tanto non saliranno mai sul podio, non avranno mai una medaglia, al massimo un referto medico benigno. La Merkel, per esempio, pare forgiata apposta per stare in poltrona, essendo lei stessa di nome e di fatto una Frau. Si segga, si quieti. Visto che ci stiamo occupando di Tognini, segnaliamo un altro fenomeno interessante che contrasta con la mitologia germanica: i tedeschi che non mollano mai, che sgobbano, amano la patria sopra ogni cosa. E invece il vice della signora Merkel, il signor Sigmar Gabriel, pretende una giornata di completo riposo la settimana, il mercoledì, perché desidera stare con la bambina. Il bello è che secondo i sondaggi il 91% dei connazionali tedeschi è d'accordo con lui, e oltre a non esserci più religione non ci sono più neanche i tedeschi di una volta, scrive Feltri. Noi saremo mammoni, ma loro sono mammoni. Pareggio, 1-1, palla al centro. E vabbè, insomma, Vittorio Feltri dal titolo: cara Merkel, meglio le carte dello sci. Doveva starsene a casa? Vabbò, andiamo intanto a sentire la pubblicità. Ecco Alessandro Milan, che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci, siamo già qui. E allora sì, anche il Corriere Repubblica dedica una pagina al capitombolo Merkel. Questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera: ferma 3 settimane per una caduta sugli sci, servono le grucce ora. E allora che doveva fare? È legittimo che anche una persona che abbia incarichi così importanti possa svagarsi, oppure non bisogna fare questi sport pericolosi, perché altrimenti c'è il rischio poi di creare dei seri problemi per il ruolo che si occupa. Vi lascio a questa domanda, un po' oziosa, ma sta di fatto è così. Anche l'incidente della Merkel ha suscitato questo tipo di discussione sui giornali italiani. Invece, che dire, ci sono giornali come il Corriere della Sera, per me tutto pare così fermo, immobile, incredibilmente immobile, che aprono sul dibattito sulla legge elettorale. Io ho una posizione molto netta, la sapete, e cioè quando il costituzionalista Michele Ainis la scorsa settimana scrive come editoriale di accidenti, che faticaccia a capirci qualcosa sulla legge elettorale, io dico, beh, ma faccia come me, insomma, basta non occuparsene, girare le pagine che si occupano di questa vicenda che non interessa a nessuno degli italiani, quasi nessuno, se non esclusivamente alla politica, e andare avanti. Però capisco che è una posizione molto netta e anche criticabile, è la mia posizione. Sta di fatto che siamo nel corso della 36esima settimana decisiva per la riforma elettorale, come io conteggio su Twitter sul mio profilo Alino Milan. È anche la 36esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, e dico questa formula settimana decisiva perché non ci volevo credere, ma due articoli sul Sole 24 Ore, Emilia Patta, pagina 11, e sul Corriere della Sera, pagina 2, iniziano proprio così. Sentite l'inizio del Sole 24 Ore, Emilia Patta: settimana decisiva per la legge elettorale e per il destino del governo Letta. Ecco, questo è il primo paragrafo. Vai sul Corriere della Sera, pagina 2, si apre una settimana cruciale per la riforma elettorale. Punto. Questo nell'articolo di Lorenzo Fuccaro. E allora evidentemente è così, sarà la settimana decisiva, sarà la 36esima settimana decisiva a cui seguirà la 37esima settimana decisiva, chi lo sa, diciamo, stiamo a vedere, tanto la settimana dura, è anche più corta, visto che c'è stata l'Epifania, dura fino a venerdì e lo scopriremo. Sta di fatto che Emilia Patta poi racconta sul Sole 24 Ore quelli che sono gli scenari. Le proposte, sapete, sono tre: di Renzi, il sistema spagnolo, il Mattarellum rivisto e il doppio turno per le elezioni dei sindaci. Vi risparmio i dettagli, tanto non interessano, appunto. Comunque, insomma, sono le riforme elettorali. La vera domanda è: se si fa la riforma elettorale, vuol dire che il governo, poi, questo per molti analisti della politica, ha i giorni contati, perché una volta ci fosse l'accordo sulla riforma elettorale che Renzi vuole fare, pare anche con Forza Italia, col Movimento 5 Stelle, insomma con chi ci sta, se viene fatto un accordo per la riforma elettorale, vuol dire politicamente parlando che presto o tardi, più presto che tardi, si va a votare. Renzi attende Forza Italia. Tutti i giornali raccontano di avvicinamenti tra Matteo Renzi e Denis Verdini, responsabile di Forza Italia, colui che più, diciamo, si occupa anche di riforma elettorale. Il Corriere della Sera parla di voci d'incontro, anche Repubblica parla di possibili avvicinamenti. Mentre Maurizio Lupi, ministro e esponente di Nuovo Centrodestra, intervistato dal Corriere della Sera a pagina 3, si discute solo sul sindaco d'Italia, irresponsabile accettare i ricatti. Comunque Maurizio Lupi racconta in questa intervista: il PD ha annunciato le sue priorità, tra domani e dopodomani noi illustreremo le nostre, nessuno immagini che dopo le primarie questo sia diventato un governo monocolore del PD. Non lo è. E dunque Lupi, che fa parte di quel nuovo centrodestra al governo, alza la voce per dire: non è che il PD può decidere da solo. Dall'altra parte, per Repubblica, Renzi accelera sulla riforma, l'accordo subito con chi ci sta. Ci sono, racconta Francesco Bei, gli Sherpa in azione. Gli Sherpa sono coloro che aiutano i politici, insomma, a trovare gli accordi. I collaboratori. Berlusconi, secondo Repubblica, vuole il sistema spagnolo. Ci sono le voci di un incontro del leader del PD Renzi con Verdini. C'è la preoccupazione di Alfano. E insomma, grande spazio a questo tema molto nuovo della politica sui giornali. Dall'altra parte Letta, come racconta Marco Galluzzo a pagina 5, e dunque insomma siamo alle prime pagine dei quotidiani, punta al 24 gennaio, venerdì 24 gennaio è il limite che si è dato per cercare questa sorta di contratto di governo. Al via dunque gli incontri coi partiti per fare questa sorta di contratto. Non sarà una sorta di contratto alla tedesca per la, come in Germania che c'è la grossa coalizione, ma racconta il Corriere, Letta parlerà con tutti coloro che sostengono la maggioranza, coi segretari, coi capigruppo, nel rispetto dei percorsi dei singoli partiti. È consapevole insomma Letta che i tempi sono stretti, non sarà facile chiudere entro venerdì 24 gennaio visto che la settimana successiva sarà a Bruxelles per incontrare i membri della Commissione europea. Entro il 24, dunque, l'intenzione di Letta è quella di avere in mano un testo chiuso con date e programmi del 2014 che includa i temi di economia, lavoro, riforme istituzionali, in modo che potrebbe essere meno formale la legge elettorale. Il metodo di lavoro sarà un mix di incontri bilaterali con tutti. Insomma la politica un po' in maniera stantia si spinge nel 2014 a parlare di queste tematiche, anche per il Fatto Quotidiano a pagina 4 Letta e la sua agenda appesi alla trattativa tra Renzi e Berlusconi. C'è anche il tema del rimpasto di governo, anche perché la questione Fassina è una questione che tiene banco. Fassina, sapete, si è dimesso. E tra l'altro oggi sarà ospite di Minoli alle 9 e che succede? Intanto andrà rimpiazzato come vice ministro all'economia, ma i tempi pare siano lunghi, e poi queste dimissioni stanno suscitando ancora nel PD un aspro dibattito, perché oggi Cuperlo, presidente del Partito Democratico, in due interviste, una a Repubblica e una al Secolo XIX, si schiera a favore di Stefano Fassina. Tutto il PD deve sostenere Letta oppure stop e andiamo a votare, così su Repubblica dice Cuperlo, o sosteniamo un'altra fase del governo fino in fondo e lo facciamo tutti, oppure si dice basta e si va a votare. Così è l'inizio dell'intervista di Giovanna Casadio. Cuperlo definisce la battuta di Renzi, quel Fassina chi, sgraziata, perché il rispetto per gli altri riflette l'idea di partito e del rapporto tra le persone, una cosa è discutere, altra smarrire la distanza tra comandare e dirigere. Ancora Cuperlo, Renzi dice che finora si è perso tempo e adesso l'Italia cambia verso. Bene, ma lui è il leader del PD e Letta il capo del governo. Si mettano le cose nero su bianco, ciascuno si assuma le sue responsabilità per quelle scelte e si agisca. Insomma un Cuperlo che dice Renzi sta un po' esagerando, così lo traduco io, tanto che il Secolo XIX mette sempre un'intervista al presidente del PD così: a Matteo dico che il PD si dirige e non si comanda. Insomma un Cuperlo che fa queste due interviste per cercare di frenare un pochino la smania di Renzi. E poi ci sono anche tanti articoli ovviamente sulle condizioni di salute di Pierluigi Bersani, ex segretario del PD. C'è una cauta fiducia dei medici, c'è questa frase della moglie che fa molto, dà molto un segnale di incoraggiamento, perché ha detto la moglie Daniela: è il marito di sempre, è il Pierluigi di sempre, nessun dubbio, è il marito che ho sempre avuto. E molti giornali raccontano che questo, più di qualsiasi bollettino dei medici, è la frase che tutti si attendevano per la ripresa insomma dopo il malore di Pierluigi Bersani. Ovviamente trovate tanti articoli su questo. Prima di continuare con la politica voglio trovare un redivivo e contentissimo, immagino, perché ha ripreso il campionato, Mauro Meazza. Buongiorno Mauro del Sole 24 Ore, come va? Bene, tutto bene. Temevo che mi introducessi con un Meazza chi, e quindi già questo mi mette di buon umore. Meazza chi? Esatto. Ecco. No, tutto bene. In realtà io non è che sia stato molto via, lo so, ieri eri qui in onda. Vabbè, ecco. Tra l'altro, tutto bene. È stato preso indegnamente, ti ho sostituito, diciamo, come si dice in questi casi. Finiscila. E andiamo avanti e vediamo che cosa c'è sul Sole. Qualcosa ho letto della Spendi Review di Cotto Mattarelli e di questa legge elettorale che, insomma, dobbiamo dire Emilia Patta, la settimana decisiva, io le conteggio, siamo a 36esima settimana decisiva, ma comunque lo vedremo. E poi che cosa c'è di altro? Senti, mi sembra più, come dire, pregnante per i destini degli italiani il fatto che abbiano sbloccato la possibilità, insomma si stia sbloccando la possibilità di compensare quello che ti deve la pubblica amministrazione con quello che tu devi al fisco, con una serie di paletti e condizioni, ma insomma ci sono questi, c'è in arrivo questo provvedimento, lo racconta Marco Mobile, il nostro titolo più importante della giornata. E poi le entrate, hanno fatto il conto, hanno detto l'anno scorso abbiamo comunque rimborsato 13 miliardi e mezzo, in realtà nel 2012, vorrei essere proprio precisini, ne avevano rimborsati un po' di più, però va bene, insomma, è un primo segnale assolutamente positivo. Al rimborso ridato non si guarda in bocca, si potrebbe dire. Ti vorrei segnalare che abbiamo una bella prova su strada del modulo RV, del quadro RVW della dichiarazione dei redditi, fatta da Marco Piazza nella sezione norme e tributi. Tu non hai capito, ma molti, penso che tu non abbia capito. Certo, famoso Radio Londra. Sì, però guarda, molti fiscalisti lo leggeranno con attenzione, perché questo quadro RV sta cominciando a turbare i sonni di diversi fiscalisti italiani, quindi l'abbiamo provato, l'abbiamo testato su strada. A proposito di strada, attenzione, perché c'è questo decreto Destinazione Italia, dentro ci sono le norme sulla RC auto, si accorciano i tempi per chiedere il risarcimento danni e ci sono altri punti oscuri, tra l'altro quella famosa scatola nera che dovrebbe darti lo sconto, insomma si sta ancora discutendo. Riferiamo di tutto ciò in norme e tributi oggi nella sezione, insomma due articoli dedicati proprio al tema dell'assicurazione auto. Poi guarda, da ultimo, visto che fai delle spiritosaggini sul campionato. Sì? No, ma perché? No, ma sento che insomma così... C'è un poco da ridere io. Quindi. No, per carità, tu oramai siete centenari, no? Non so, come ieri ho visto questa maglia, questa sì, cosa sì, di vita. Vabbè. Ecco, no, ti voglio dire, è molto interessante questo ricorso di Petkovic che allena una squadra che non preferirei non nominare. Ah, giusto, nel caso, perché si allenava la Lazio, insomma. La Lazio che, ecco, ieri ha avuto un moto di... Non ho seguito. Orgoglio. Non ho seguito, cioè, perché stavo lavorando. E il cambio d'allenatore, tante volte... Non ho potuto seguire questi eventi. No, però sportivi. È interessante il tema. Cioè, Petkovic è stato licenziato per giusta causa dall'Otito. Esatto. E la cosa di interessante è che va al tribunale, cioè come un qualsiasi dipendente. Vuole tornare alla Lazio. Lui e tutto il suo staff. Adesso vediamo se insomma lo reintegrano in qualche modo. Che cosa succede? Però la partita di ieri è omologata. Sì, non è che se... Non è che se lo reintegrano devono rifarla Lazio-Inter. Con l'allenatore vecchio? No. Non lo so, però questa potrebbe essere un'ipotesi da studiare. Da mettere, esatto. Vediamo se Toir è disposto a investire qualcosa, se non nei giocatori, almeno negli avvocati. Esatto. Nel ricorso si potrebbe fare così. Se viene reintegrato Petkovic, la partita va rigiocata. Va rigiocata perché è stata appunto con un allenatore che non era legittimo, come magari sancirà il tribunale, come sancirà il giudice del lavoro. Vediamo. Staremo a vedere. Lo raccontiamo oggi sul Sole 24 Ore per chi è appassionato non solo di vicende calcistiche, ma anche giuslavoristiche. Anche gli allenatori di calcio vanno al giudice del lavoro per riprendersi la panchina. Vabbè, caro Mauro, ti ringrazio. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ci ritroviamo domani e poi continuiamo con le altre notizie dai giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora eccoci qua per continuare le notizie dalla politica. Forza Italia invece pare sia arrivata alla svolta, con, almeno racconta la stampa, ma questo è un po' un tormentone che va avanti da giorni, con la scelta di Giovanni Toti, che attualmente è il direttore del TG4 di Studio Aperto, come vicepresidente di Forza Italia. Almeno così vuole Berlusconi, ma c'è una fronda interna che non vede bene quello che la stampa definisce questo nuovo parvenu della politica dal mondo del giornalismo. Aria nuova in Forza Italia, invece, il titolo della stampa: il cavaliere sceglie Toti, sarà il suo rottamatore, sarebbe sempre più vicino alla scelta di Giovanni Toti come uomo che deve in qualche modo anche rinnovare il partito. Tra l'altro c'è un giallo sulla Befana, o meglio il Befano Silvio Berlusconi. avrebbe dato, dico il condizionale perché tutti i giornali dicono ha dato 50.000 euro a una coppia di disoccupati con due gemelli in arrivo che gli avevano scritto qualche tempo fa a dire siamo in grave crisi, caro presidente Berlusconi, e lui che ha fatto? Aveva spedito una lettera allegando tre assegni circolari per un totale di 50.000 euro. Così scrivono Libero, Silvio Befano, 50.000 euro a una famiglia in crisi, così scrive il giornale, senza lavoro e con due figli, Silvio regala 50.000 euro, ma dico avrebbe perché il giallo è invece sul Messaggero. Marco Ventura pone questo giallo a pagina 7, così Silvio mi ha donato 50.000 euro, ma ad Arcore nessuno se lo ricorda. E allora, questa signora, Tomasina Pisciottu, Tomasina con una M, ma già il giallo è perché la mail è mandata da tale Tomasina con due M, ma negli assegni è Tomasina con una M. E poi c'è questa dichiarazione raccolta dal Messaggero perché dice a Villa San Martino nessuno ricorda di questo episodio. Lei dice di aver scritto al Cavaliere che lo stima come imprenditore, come uomo, che è dispiaciuta per le vicende giudiziarie e nonostante pure quelle squallide degli incontri non mi sento di esprimere un giudizio negativo. La risposta di Berlusconi c'è, la lettera, grazie per gli auguri, ma chissà se ci sono gli assegni. Insomma, questo è un giallo secondo il Messaggero, notizia che tutti danno per certa, per il Messaggero diventa perlomeno dubbia. Berlusconi ha dato e ha spedito o no tre assegni per un totale di 50.000 euro a una coppia di disoccupati con due gemelli in arrivo? È più certo invece la scelta che ha fatto la rivista Foreign Policy, che anche qui farà discutere a qualcuno, racconta La Stampa con Paolo Mastrolilli a pagina 16, ha incluso tra i 100 pensatori più influenti al mondo, insieme a Mario Draghi, insieme alla fisica italiana Fabiola Giannotti, che ha dato un contributo fondamentale alla scoperta del bosone di Higgs, sapete chi ha messo insieme a questi anche Cécile Kyenge, ministro italiano all'integrazione. Gli Stati Uniti incoronano Kyenge, coraggiosa, cambia l'Italia. È inclusa tra i 100 più influenti pensatori al mondo. Con questa motivazione, come primo ministro italiano nero, Cécile Kyenge ha sopportato abusi inimmaginabili. È stata paragonata a una prostituta, un orangotango. Le hanno tirato addosso le banane, hanno piazzato manichini insanguinati fuori dalle sale dove parlava. Le è stato detto che sarebbe stata una grande donna di servizio. Un politico locale ha perfino suggerito che doveva essere stuprata. Elencati gli abusi, la motivazione continua così. La Kyenge ha gestito questo razzismo mozzafiato, molto del quale veniva da colleghi politici, con grazia ed equanimità, forse perché il suo lavoro è assicurare che l'Italia dia il benvenuto alla diversità. Per questo motivo, inclusa tra i 100 pensatori più influenti al mondo dalla rivista Foreign Policy. C'è da dire che la notizia di cronaca che è più diffusa sui giornali, tutti vi dedicano due pagine, è questo omicidio che c'è stato in una villetta dove un'intera famiglia è stata sterminata. I sospetti, anche se non è assolutamente indagato al momento, sono per il figlio Maurizio, che si difende in una serie di interviste, ero a sciare, ero con gli amici, questa vicenda è avvenuta a Caselle Torinese in provincia di Torino e che rischia di diventare sicuramente l'episodio di cronaca almeno dei prossimi giorni, perché ci sono tre persone, due donne e un uomo, che sono state della stessa famiglia, che sono state trovate in casa, in una casa che si racconta non aveva segni di effrazione, nella quale ci sono ovviamente già i RIS in azione, si trovava in questa casa, sono stati trovati tre cadaveri e ovviamente tutti i sospetti sono per il figlio ma staremo a vedere sviluppi, per chi è appassionato anche di cronaca nera certamente sui giornali troverete tanto di questo. Come voglio segnalare solo questa notizia: la Stampa continua con la vicenda Vannoni e la vicenda Stamina. L'ultima notizia è questa, Nicolò Zancana, pagina 8. Stamina, la onlus commerciale, Vannoni blinda gadget e magliette. Si chiede alla Stampa perché l'estate scorsa il guru del metodo Stamina ha registrato il marchio, ma lo ha registrato chiedendo che sia depositato e protetto da eventuali usurpatori per diverse classi commerciali, come cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, prodotti farmaceutici, veterinari, prodotti igienici, alimenti, sostanze dietetiche, scarpe, cappelleria, attività sportive, culturali, insomma... A Vannoni, che dice sempre non ho mai guadagnato un euro col metodo Stamina, risponde in qualche modo la Stampa a dire certo, però ha registrato il marchio. Perché registrarlo alla stregua di un marchio commerciale? Ecco, questa è la nuova puntata del caso che sta facendo discutere in termini di sanità. Oh, voglio titolare, voglio vedere il titolo della Gazzetta, lasciatemelo fare, lo so che siamo disgraziati quest'anno in classifica, a parte che io dico molto meglio quest'anno arrivare dodicesimi per crollare giù in fondo per poi risalire. E quindi leggo il titolo della Gazzetta, va bene? Oggi è arrivata Cacà ricade i 101 gol, Riccardino Cacà, grandissimo, ci consoliamo così. E poi siamo qui al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi stravince, prima edizione del 2014, Roselina Salemi, e credo non sia neanche la prima volta, sulla Stampa doveva esserci, sono gli articoli che più non sopporto, finite le feste, c'è quello per il, cos'è, il Christmas Blues, oppure c'è questo, le quattro mosse per battere l'effetto cenone, l'effetto cenone, dai, avete preso qualche chilo, allora il ballo, l'acqua fitness, la frutta, la meditazione, lo yoga, tutti i consigli, un'intera pagina per combattere gli effetti del cenone. Aiutatemi voi a far dire anche alla Stampa che la carta costa, cari amici, è tempo di giornale radio.